Quando l'Onnipotente non è onnipotente, nessuno di noi sopporta gli estremi. Il sole è una grande benedizione, ma troppo sole dà fastidio. La pioggia fa bene, ma troppa produce guai. Mangiare fa bene, ma mangiando troppo ci si ammala. Bere un po' di vino fa bene, ma a berne troppo ci si ubriaca. Dormire è indispensabile, ma dormire troppo fa male alla salute. Anche nel campo religioso non bisogna esagerare. Se si prendesse alla lettera tutto ciò che Gesù ha insegnato, dovremmo tutti essere senza un occhio e senza una mano. Se prendessimo in senso metaforico tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, il fatto storico di Gesù, sarebbe una favola. Così è anche per quello che pensiamo di Dio. Nel Dio dei cristiani sussistono tre persone che amano la loro creatura, ma contemporaneamente odiano il peccato. Un solo aspetto del carattere del Dio Trino mette in ombra altri aspetti importanti. Così, quando diciamo che Dio è onnipotente, dobbiamo chiarire che cosa stiamo sostenendo, perché nella nostra mente, molto probabilmente, ci siamo formati un concetto sbagliato di Dio, un concetto del quale la Bibbia non è colpevole. È vero che i credenti dell'Antico Testamento avevano un concetto di un Dio onnisciente o onnipresente, ma non onnipotente, nel senso che poteva fare ogni cosa. Vogliamo leggere la testimonianza di Davide. Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel regno dei morti, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Salmo 139, 1-12. Davide era cosciente che Dio sapeva tutto, vedeva tutto. Ed era ovunque, e da qui noi abbiamo coniato i termini onnisciente e onnipresente. Ma per poter affermare anche che Dio è onnipotente è necessario chiarire alcune cose. Che la potenza di Dio sia straordinaria e immensa, non vi sono dubbi. Quando l'Eterno Dio creò il mondo bastò una parola, quando divise il Mar Rosso bastò un gagliardo vento, quando Gesù guariva bastava una parola o un tocco. Ma quando si è trattato di risolvere il problema del peccato dell'uomo non è più bastata una parola o un tocco, ma nel consiglio divino della divinità degli ebrei e dei cristiani, il figlio di Dio ha dovuto assumere un corpo, svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Filippesi 2, 6 a 8. L'umiliazione di Gesù viene presa come un dato normale, come un avvenimento di cronaca, ma dietro a questo sacrificio vi è il messaggio di un Dio grande e potente, ma non onnipotente. Se con il termine onnipotente vogliamo dire che Dio può tutto, nel senso che può fare quello che vuole, allora questo non corrisponde alla realtà. Forse l'esempio più evidente che Dio non può tutto si trova nel Vangelo di Marco, nella descrizione dell'episodio che vede Gesù nel Getsemani poco prima di essere arrestato. Poi essi arrivarono ad un luogo chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli, «Sedete qui, finché io abbia pregato». Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere preso da timore e angoscia, e disse loro, «L'anima mia è grandemente rattristata, fino alla morte. Rimanete qui e vegliate». E, andato un poco avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, si allontanasse da lui quell'ora e disse: «Abba, padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi». Quindi, tornato indietro, trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro: «Simone, dormi, non hai avuto la forza di vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, certo lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Se ne andò di nuovo e pregò, dicendo le medesime parole. Ritornato, trovò i discepoli nuovamente addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Infine ritornò per la terza volta e disse loro: «Dormite pure ora e riposatevi, basta. L'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Marco 14, 32-42. Nessun altro episodio è pari a questo nel mettere in rilievo l'umanità di Gesù. Gesù fino a quel momento aveva compiuto la volontà di suo Padre e anche di fronte ad una immane sofferenza desiderava compiere la volontà di Dio. Però, essendo anche un uomo con una sua propria volontà, chiese al Padre per tre volte se era possibile evitare la morte sulla croce, perché il Padre poteva ogni cosa. Ma la risposta fu che non era possibile. Il peccato dell'uomo doveva essere tolto, la separazione della creatura con il Creatore era smisurata, e Gesù era venuto sulla terra non per fare una passeggiata, ma per riconciliare l'uomo a Dio e per togliere il peccato. Non vi era un altro mezzo, non vi era un'altra possibilità. Il Dio onnisciente e onnipresente in quel momento non era onnipotente. Il Padre non poteva risolvere il problema del peccato dell'uomo in nessun altro modo, se non mediante la morte di suo figlio. Per Dio non era possibile perdonare il peccato, non era possibile chiudere un occhio sulla malvagità degli uomini. Se vi fosse stata una sola possibilità di evitare al figlio la morte in croce, il Padre lo avrebbe certamente fatto. Chi è quel padre che non eviterebbe al figlio una morte atroce come quella della crocifissione? Eppure, nonostante l'amore che nutriva e nutre nei confronti del figlio, il Padre Celeste era impotente a salvare suo figlio dalla morte. La volontà del Padre era che Gesù morisse in croce. Certamente il Padre avrebbe anche potuto salvare suo figlio dalla morte della croce, ma avrebbe poi perso la sua creatura. Tutta la razza umana sarebbe stata condannata alla perdizione. E così, nel dilemma di questa scelta d'amore tra il figlio e la creatura, il Padre, incapace a salvare entrambi, mandò suo figlio sulla croce, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. La morte di Cristo è stata la vita del peccatore. La morte sostitutoria di Gesù annunzia l'amore di Dio per la sua creatura, ma annunzia pure il suo odio per il peccato. Se Dio avesse potuto non odiare, il peccato avrebbe evitato a suo figlio la crocifissione. Ma il suo carattere di santità gli impediva di tollerare la trasgressione umana. Dio non può esprimersi contrariamente al suo carattere come il sole non può produrre freddo. Affermando che Dio è onnipotente, cioè che può fare quello che vuole, occorre tenere presente che egli non può agire in opposizione alla sua natura divina, santa, giusta ed amore. Quindi l'onnipotenza di Dio va compresa tenendo presente anche gli altri suoi attributi. In merito all'onnipotenza di Dio, Agostino commentava: «Dio non può morire e non può ingannarsi». E proprio perché non può morire, non può ingannarsi e non può odiare che Dio rende sicuro il credente che pone fede in lui. Se Dio fosse onnipotente, nel senso che può fare qualsiasi cosa, quale fiducia si potrebbe avere in lui? Se Dio potesse mentire, quale sicurezza avrebbe il credente? Se Dio potesse odiare, come potrebbe essere sereno chi pone fede in Cristo? Se Dio non è stato onnipotente per salvare suo figlio dalla morte della croce, non è neppure onnipotente per salvare colui che non vuole essere salvato. Qualcuno ha detto che ci è una cosa che Dio non può fare, e cioè quello di guarire una persona sana. In effetti, pur nel pieno della sua potenza e capacità di compiere grandi opere, Dio è impotente a salvare chi non desidera essere salvato, chi non vuole credere in Cristo. Con questa prospettiva il dibattito sulla predestinazione è risolto. Mentre per i calvinisti la salvezza non è per fede ma è data da una sovrana chiamata di Dio, chi crede alla salvezza per fede ritiene che Dio usi la sua potenza limitandola nel pieno rispetto della volontà dell'uomo. Come Dio non ha imposto nulla a Cristo, egli non impone nulla all'uomo. Dio è potente, ma non può, perché non vuole, in armonia con gli altri aspetti del suo carattere, imporre all'uomo una scelta che l'uomo non voglia fare. La potenza di Dio è tale e perfetta solo quando è in armonia con gli altri suoi attributi. Così, sperare nell'onnipotenza di Dio per la propria salvezza è una chimera dalla quale dobbiamo guarire. L'autore della lettera agli Ebrei ha scritto espressamente le seguenti parole: «È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente», Ebrei 10 e 31. L'amore di Dio non è sufficiente per salvare l'uomo. L'amore di Dio non è onnipotente, cioè non può fare tutto. L'amore di Dio si propone, si offre, è un amore che si dona fino alla morte, ma non può andare oltre. Se l'amore di Dio andasse oltre, mancherebbe da un'altra parte, violenterebbe la libera scelta dell'uomo. Se Dio fosse onnipotente, eviterebbe all'uomo di cadere sotto il suo giudizio, come avrebbe evitato di abbandonare Gesù sulla croce. Ma anche queste due cose Dio non può e non poteva fare. Perciò la nostra fede nel Dio delle Scritture non deve essere il frutto di un nostro ragionamento, non deve cadere in un estremo che non saremmo in grado di sopportare, ma deve essere l'accettazione della sua rivelazione per fede. Il Dio delle Scritture si è rivelato come il Dio onnipotente, termine che si trova più di 50 volte, Genesi 17:1, Giobbe 8:3-5, ma la sua potenza è condizionata o limitata dagli altri attributi. In questa potenza delimitata o circoscritta che è insita nella sua natura, il Dio Trino è veramente onnipotente. Dicembre 2005. Ellero,